Il gastronauta di Davide Paolini. Bonjour cari gastronauti, ebbene oggi inizio in francese perché parleremo di bollicine, ma bollicine d'acqua, non bollicine di champagne o di spumante metodo classico italiano. Ebbene, parleremo di bollicine d'acqua perché ormai le acque minerali sono entrate di forza, non solo nelle case, ma sono entrate nei ristoranti, perché ormai moltissimi ristoranti hanno la carta delle acque minerali e ci sono anche i sommelier delle acque minerali. E il consumo è andato alle stelle, perché se pensate che è crollato il consumo del vino in Italia, quello della birra è stabile, anzi in leggera diminuzione, mentre chi cresce è l'acqua minerale. Ecco perché oggi ce ne occuperemo per andare a scoprire anche molti segreti, ad esempio quelle scritture così piccole, indecifrabili, che rappresentano le etichette delle acque minerali, e poi anche questi prezzi ormai fuori di testa delle acque minerali rispetto ad esempio al vino. Ebbene, allora io vi do il numero verde 824 0024, SMS 349-238-6666, e vi prego eventualmente di intervenire nelle prime parti della trasmissione, perché altrimenti quando arriviamo in fondo ci sono tante telefonate, purtroppo non si riesce a rispondere a tutti. E ricordo anche che dopo le acque minerali parleremo di ciliegie. Bene, allora io vorrei cominciare questa trasmissione con il dottor Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno. Senta, ci vuole aiutare a distinguere le acque minerali che sono in commercio? Cioè, diciamo, una distinzione, una classificazione? Certo, innanzitutto occorre ricordare che le acque minerali, il loro controllo è sottoposto ad uno stretto controllo da parte degli organi sanitari, e tutto quello che è scritto in realtà è regolato da una normativa. Poi diversa cosa è dire che ciò che c'è scritto sia comprensibile, allora cerchiamo di dare un'indicazione. Innanzitutto io dico sempre che il vero motivo per la scelta di un'acqua minerale è il gusto personale del consumatore. Naturalmente poi è utile capire che cosa compone quel gusto. Innanzitutto occorre cominciare dalla maggiore di tutte le tutele, che l'acqua minerale, così si chiama in Italia, ma come sapete ci sono acque minerali che si chiamano minerali perché contengono dei minerali, ma tutte le acque del mondo contengono i minerali. Ci sono le acque minerali diciamo oligominerali, cioè quelle che ne contengono poche, poi ci sono le acque minerali medio minerali che ne contengono un po' e un po', e poi ci sono quelle fortemente mineralizzate. Ha importanza questo per il gusto e per la salute? Beh, certo. Le acque oligominerali, per esempio, contengono pochi minerali. Quali sono i minerali? Sono il sodio, per esempio, il cloro, il magnesio, tanti minerali, il ferro. Ognuno di questi minerali, a seconda della sua concentrazione, dà un certo sapore all'acqua, ma ne definisce anche le caratteristiche sanitarie. Faccio un esempio. Le persone che, per varie ragioni, malattie, dieta, devono introdurre poco sodio, il sodio è insieme il cloruro di sodio, insomma, ecco, cioè il sale da cucina, e tutti gli ascoltatori sapranno che spesso il medico consiglia una dieta povera di sodio. Ecco, nelle acque minerali spesso c'è il sodio, quindi è importante, al di là del gusto, che il consumatore, che deve avvalersi anche dell'acqua nella dieta, dell'acqua minerale, scelga una dieta povera di sodio anche nelle acque. Quindi bisogna andare a vedere sull'etichetta che viene apposta sull'acqua minerale dove questo è scritto. Bene, sentiamo già un radioascoltatore, Roberto da Roma. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Mi dica. Buongiorno. Prego. No, io volevo soltanto così porre al centro dell'attenzione un problema del costo delle acque e del loro uso. A me sembra veramente assurdo che le acque che vengono utilizzate da tavola costino così tanto, e soprattutto non si faccia uso delle acque invece che già sono certificate delle sorgenti. In particolare nella provincia di Roma ci sono delle acque buonissime, delle sorgenti diciamo dell'interno dei Monti Simbruini, che poi vengono messe nel consorzi di acquedotti e vanno in tutta la provincia di Roma, ma anche per usi che non sono assolutamente potabili, da quelli industriali, civili, agricoli, per cui una bottiglia veramente acqua che è come acqua minerale, tant'è vero che dall'altra parte diciamo dell'Appennino la stessa acqua viene utilizzata per essere imbottigliata, si spreca in usi che non hanno nulla a che vedere con invece il gusto dell'acqua. Roberto, ora di questo argomento lo tratteremo ampiamente, anche perché stanno arrivando moltissimi sms in cui dicono, ne leggo uno: finché esistono dei polli disposti a strapagare della semplice acqua, fanno benissimo a spendarli. Poi sentiremo anche dei produttori di acque su questo argomento. Io ho in linea Claudia Chiozzotto, che è esperta di acque e ambiente per altro consumo. Buongiorno Chiozzotto. Buongiorno a tutti. Le volevo chiedere a lei, sono così chiare le etichette che appaiono sulle bottiglie delle acque minerali? Ma non sono sempre chiare, questo penso sia evidente anche solo quando si va un po' a vedere la dimensione dei caratteri che, ecco, con cui vengono riportati ogni tanto. Quello in particolar modo, credo. Sì, e inoltre ciascun produttore può, diciamo, scegliere i parametri che mette in chiaro in etichetta. Non è obbligato naturalmente a metterli tutti, perché sono molti di più quelli sui quali sono previste delle analisi, sia da parte dei produttori che da parte delle autorità di controllo. E quindi quelli che vengono riportati in etichetta, ma soprattutto quelli che vengono evidenziati in etichetta, spesso appunto con della vera e propria pubblicità in etichetta, non sono sempre magari quelli più interessanti. Per cui è un po', diciamo, ognuno mette in etichetta un po' quello che preferisce mettere in risalto. Ecco, ma non esiste una regolamentazione su questo, su cosa è obbligatorio mettere in etichetta? Proprio obbligatorio no, c'è una lista di parametri che i produttori devono verificare. Ho capito. Poi quello che viene riportato in etichetta è a discrezione del produttore. Bene, io ora passo la linea alla viabilità, mi raccomando i nostri esperti che sono i nostri invitati che sono al telefono di rimanere con noi. Ricordo il numero verde 800 24 0024, a fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di bollicine d'acqua. Abbiamo cominciato a sentire sul discorso dell'etichetta, abbiamo cominciato a sentire come si classificano le acque. Volevo chiedere al dottor Cricelli, ho diversi sms che mi parlano del residuo fisso. Ci può dire qualcosa, dottore? Beh, innanzitutto volevo dire che non è vero che non siano obbligatorie delle indicazioni sull'etichetta, non sono obbligatorie delle indicazioni commerciali. Salvo quando queste indicazioni facciano riferimento alla salute. Quando si fa un riferimento alla salute, questo si chiama claim, e questo deve essere approvato obbligatoriamente dall'autorità sanitaria, dalla Commissione Nazionale Unica per l'Alimentazione, di cui faccio parte. La seconda cosa è che ci sono invece, ed è una legge approvata ormai da più di 15 anni, delle indicazioni obbligatorie, tra cui la indicazione di quanta del residuo fisso, delle sostanze disciolte, del fatto che l'acqua sia microbiologicamente o batteriologicamente pura. E poi ci deve essere per forza l'indicazione della disposizione che ha dettato, che ha sanzionato, che ha verificato questo, e del laboratorio che l'ha effettuata. Residuo fisso. Il residuo fisso praticamente viene calcolato ad una certa temperatura che viene indicata sull'acqua, e ci dice esattamente, una volta fatta evaporare completamente l'acqua, cosa rimane in fondo al recipiente. Questo è il residuo fisso, cioè la quantità di sostanze disciolte nell'acqua che, una volta evaporata l'acqua, rimangono. E questo ci aiuta a capire anche un po', come dire, la pesantezza dell'acqua, che non è necessariamente né positiva né negativa. Alcune eccellenti acque minerali hanno un sapore proprio perché c'è un elevato residuo fisso, che deve essere distinto invece dalle sostanze disciolte, cioè dei sali minerali e altre sostanze che sono contenute, che ci danno un'indicazione appunto delle caratteristiche dell'acqua. Per esempio l'acqua ricca di calcio, che per alcuni può essere, voglio dire, non indicata, lo è per altre persone, perché un'acqua minerale può dare tanto calcio, può supplementare, certo, la dieta di calcio. Donne con osteoporosi, bambini nella fase dello sviluppo osseo. Bene, grazie dottore, rimanga ancora con noi, sentiamo Rocco dalla provincia di Bari. Sì, buongiorno egregio dottore, una domanda che penso per me è molto importante. Ho un bimbo molto piccolo ed è il secondo, se ne parla tantissimo dell'importanza di somministrare dell'acqua a basso residuo fisso per quanto riguarda i bambini. All'inizio li fanno crescere con dell'acqua morosa, che comunque è molto costosa, parlando anche del momento storico e dell'economia dell'Italia e delle famiglie italiane. Parlando di altre acque che hanno un residuo fisso basso, tipo, ora non vorrei fare pubblicità, però mi serve menzionare, se posso menzionarlo però. Prego. Sì, la Sant'Anna, che ha comunque dei costi per le famiglie molto molto bassi, ha un residuo fisso anche più basso di altre di marchi più, più importanti. L'importanza del residuo fisso per i bambini, solo questo. Se bene, ci possiamo fidare, grazie. Di acque diverse. Grazie, dottor Cricelli, il residuo fisso è importante per i bambini? Diciamo, i bambini molto piccoli traggono la maggior parte dell'acqua necessaria all'alimentazione dal latte. E molti pediatri per esempio non indicano di non somministrare acqua supplementare. Quando poi si tratta di sciogliere per esempio le pappe o i latte artificiali, si cerca di scegliere un'acqua che abbia due caratteristiche: che sia meno sapida possibile, che abbia meno sapore, che abbia un residuo fisso basso, nel senso che abbia pochi sali minerali disciolti, nel senso che quest'acqua serve semplicemente ad allungare o a disciogliere sostanze in polvere. E qualcuno prima consigliava per esempio un'acqua ricca di calcio. Il residuo fisso è soltanto un'indicazione molto generale del contenuto totale di sali minerali. Secondo me è più importante invece vedere specificamente, e questo è sempre indicato sull'etichetta, proprio le quali sali minerali sono contenuti. Per esempio, una delle cose che pochi sanno è che i nitrati e i nitriti, sono bassi soprattutto, sono un segno di bassissima contaminazione dell'acqua. E quindi magari scegliere un'acqua con pochissimi nitrati disciolti, con una quantità di calcio, diciamo, media, che serva a fornire al bambino piccolo la quantità di calcio necessaria. Bene. Una cosa, se posso dirla. Sì. Guardate che il valore nutritivo e la qualità delle acque minerali non dipende affatto dal prezzo. Bene, la ringrazio. Grazie, dottor Cricelli, per la sua chiarezza. Bene, io vorrei ora introdurre anche il dottor Giorgio Temporelli, che è esperto della Fondazione AMGA, Onlus per la tutela dell'ambiente e delle risorse idriche. E buongiorno, dottor buongiorno, Temporelli. Buongiorno a voi. Le vorrei fare questa domanda che secondo me è molto interessante di un radioascoltatore, un SMS. Se a Napoli trovo bottiglie d'acqua di Trento, ma quanto costa di inquinamento quella bottiglia? Inoltre è vero che le analisi delle acque potabili sono più controllate delle minerali? Ma guardi, il primo punto, diciamo, è molto caldo. Perché in realtà è un fenomeno che da molti anni è presente nel nostro paese. Nel nord Italia si trovano marche del sud, ma soprattutto al sud si trovano molte marche del nord, e questo evidentemente ha un impatto ambientale che deve essere tenuto presente quando si acquista una bottiglia. Ovviamente il fatto è anche questo, che molte regioni hanno più disponibilità di acqua. Per esempio in Lombardia ci sono moltissime marche imbottigliate, e quindi la Lombardia esporta, diciamo, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, molti, molti tipi di acque. Quindi il problema diciamo è anche di, così come posso dire, di aggressività di mercato. Ma sul discorso dell'inquinamento però è sicuramente un'osservazione giusta. C'è il trasporto, ci sono tante altre... L'inquinamento ha due aspetti. Uno è quello, ovviamente, come diceva il radioascoltatore, del trasporto, che è prevalentemente su gomma ancora oggi, e quindi si vedono appunto passare sull'autostrada questi tir carichi di pallet di acqua, e insomma fanno un po' riflettere queste cose, ovviamente, anche se poi è piacevole indubbiamente bere l'acqua, averla pronta in qualsiasi bar, l'acqua con le bollicine fresca, però fa un po' riflettere magari la storia di quest'acqua. Nella storia di quest'acqua bisogna anche tener conto che magari ha percorso 1000 chilometri su un camion. Bene, grazie a Giorgio Temporelli. Volevo richiedere a Claudia Chiozzotto questo: le acque minerali, dottoressa Chiozzotto, hanno una scadenza? Hanno una scadenza, sì, che viene, diciamo, è una data entro la quale è preferibile consumare l'acqua, che viene indicata in etichetta, e naturalmente è consigliabile tenerne conto, insomma. Recentemente appunto mi è stato ricordato come le acque minerali in Italia abbiano in realtà una vita di scaffale molto breve, perché appunto il consumo, l'acquisto da parte dei consumatori è molto frequente, e quindi non rimangono poi per molto tempo sugli scaffali dei supermercati. Però ricordiamo anche che le acque imbottigliate, appunto così conservate, vanno mantenute in un posto asciutto, al buio, per evitare che ci siano eventuali proliferazioni, insomma, di tracce all'interno delle bottiglie, e quindi ci sono anche appunto delle regole di buona conservazione anche per un alimento così stabile e così sicuro come quello delle acque minerali. Bene, grazie a Claudio Chiozzotto, grazie. Ora abbiamo con noi un produttore di acque minerali, che è Rino Mini, che è presidente del gruppo Galvanina Val di Meti. Buongiorno Mini. Buongiorno, dottor Paolini. Senta Mini, ma le accuse alle acque minerali di costare troppo, lei cosa ne pensa? Ma guardi, penso che il costo dell'acqua minerale in Italia sia il più basso in assoluto a livello mondiale. Questo determinato dai grandi volumi che l'Italia consuma di acqua minerale. Ovviamente ci sono dei costi di distribuzione che sono fortissimi e che poi implicano sul mercato la conseguenza dei prezzi alti. Comunque è possibile trovare acque minerali nei supermercati a prezzi ancora molto molto bassi, sicuramente più bassi del mondo. Ecco, il discorso appunto che si trovano acque minerali, diciamo come diceva il radioascoltatore, di Trento a Napoli e viceversa, questo non potrebbe essere così in qualche maniera, diciamo non eliminato, però in qualche maniera, come posso dire, limitato questi grandi trasferimenti. Io per esempio anni fa a Salina, all'isola di Salina, ho trovato... l'unica acqua minerale che c'era era un'acqua minerale di Biella. Ecco, un'isola in un'isola, insomma, mi sembra che veramente sia così, sia un po' troppo questo. Lei ha colpito un obiettivo ovviamente giustissimo. Noi come aziende sposiamo dalla nostra nascita la politica del territorio, quindi prevalentemente ci muoviamo assolutamente a livello interregionale. Questo ovviamente per dare al territorio innanzitutto un'importanza fondamentale, che è quella del consumo del prodotto del luogo, ma poi anche per una questione di inquinamento eccetera eccetera e di prezzo, che poi ovviamente oscillerebbe in maniera determinante sul prezzo del prodotto, perché ci sono dei casi in cui il prezzo del trasporto può incidere addirittura più del prezzo del prodotto stesso. Bene, grazie a Rino Mini del gruppo Galvanina. Bene, sentiamo Bruno da Milano. Buongiorno Bruno. Buongiorno. Senta, io, a me è stata prescritta una dieta iposodica. Nelle acque minerali il sodio è normalmente abbastanza elevato. Vorrei sapere l'acqua dell'acquedotto, l'acqua del rubinetto, a livello di sodio com'è? Bene, rimanga in linea perché poi abbiamo un medico e lo facciamo intervenire, un dietologo molto esperto di cose di cibo. Sentiamo Lorenzo da Verona. Io ho avuto problemi per insufficienza renale, mi è sempre stato consigliato di guardare il residuo fisso. Adesso sento parlare dal professore che c'è un problema di sodio, di calcio e poi alla fine la durezza totale, che in questo caso che io prendo da San Bernardo, gradi francesi 2,6. Ma la domanda era sodio, calcio assieme al residuo fisso. Grazie. Bene, sentiamo, allora abbiamo con noi Michele Sculati, che spesso partecipa appunto alle nostre trasmissioni, medico nutrizionista di Bergamo. Buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Hai sentito questo discorso della dieta iposodica? Puoi dare risposta a queste due domande? Allora, per essere considerata sodica, un'acqua deve avere più di 200 mg per litro e le acque che sono normalmente distribuite nei nostri acquedotti sono ampiamente sotto questo dato, per questioni naturalmente di sicurezza e di salute pubblica, quindi si possono tranquillamente consumare. Teniamo presente anche che se dovessimo bere un'acqua che ha le acque minerali mediamente in commercio hanno circa 100 mg per litro, e quindi significa assumere circa 0,2 grammi di sodio, e noi dovremmo assumerne circa 6 al giorno. Quindi teniamo presente che se mangiamo una porzione media di formaggio ne assumiamo circa 2 grammi, e quindi ecco, dobbiamo anche fare le proporzioni. Quindi certo, l'acqua è vero che può, però non così tanto. La seconda domanda invece, in base, chiedeva un soggetto con calcolosi che cosa deve guardare. Beh, sicuramente solitamente vengono segnalate acque, la preferenza per acque oligominerali, quindi con un residuo fisso minore di 500 mg litro. Però devo dire che nel 2003 è comparso uno studio sul New England Journal of Medicine, che è una delle più importanti testate, che diceva che l'importante per i soggetti affetti da calcolosi è bere tanto. E poi in realtà quanto calcio c'è all'interno dell'acqua può risultare trascurabile. Bene, grazie a Michele Sculati per queste due risposte esaustive. Ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco. Ricordo numero verde 824 0024, sms 349 238 6666. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di bollicine, ma subito dopo parleremo di ciliegie come promesso. Sentiamo Carlo dalla provincia di Milano. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti. Sono un dipendente del comune e ho insieme all'inchiesta fatta così dall'altro consumo sulle acque, ne ho fatta una io personale all'interno del comune. Dunque, l'utilizzo delle acque prevalentemente col presupposto iniziale non è tanto corretto, perché è la massa di pubblicità che porta a far credere che siano necessarie le acque queste da bere, mentre i miei colleghi della ASL preferiscono bersi quella del rubinetto se al limite ha un po' di sabbia, un filtrino finisce lì. L'inchiesta dell'altro consumo porta anche a indicare che la maggior parte delle acque in commercio, no, quasi oltre il 90%, sono meno buone e le più ricche di conservanti e materiale non buono rispetto a quello del rubinetto. Ha detto conservanti, ho sentito bene? Sì, conservanti. Andando sul sito dell'altro consumo si possono anche trovare le indagini con i livelli trovati, i conservanti, i pesticidi trovati nelle acque minerali consegnate in bottiglia, cosa che non può avvenire invece nelle acque controllate quotidianamente da quelle del rubinetto. Guardi, ho un SMS che mi dice: è vero, l'acqua del rubinetto ha più controlli, però l'uscita del proprio rubinetto sappiamo come, perché a monte c'è il controllo, ma durante il tragitto i tubi come sono? Interrogativo. Saluti Agostino, viene a fagiolo, come si dice. Caro Carlo, mi sembra di capire. Ma sentiamo un altro intervento. Alberto da Milano, buongiorno. Buongiorno Paolino, buona giornata a lei. Mi viene da sorridere, pensavo all'intervento dell'ascoltatore prima. Io vorrei aggiungere un focus alla trasmissione, perché prima si parlava di costi di distribuzione. Io mi occupo di strategie e marketing dell'area Lombardia, in particolare ho seguito alcune delle pubblicità che vediamo in TV sulle varie acque. Il 90% del costo della bottiglia è per il marketing e per la pubblicità. Pagare le figure, calciatori e veline per fare la pubblicità sulle acque costa molto più della benzina che si impiega per spostare l'acqua da Trento a Savina. Quindi da una parte va bene l'inquinamento, dall'altra attenzione, perché la forma della bottiglia, il colore fluorescente della bottiglia e i grandi attori che ce le pubblicizzano incidono molto sul costo dell'acqua. Insomma, lei ci sta dicendo che un qualcosa che ha valore quasi vicino allo zero costa tanto perché ci sono i costi di pubblicità, quindi per far consumare quel prodotto. Sì, io se vuole le dico di più: la stessa acqua viene imbottigliata con marchi diversi e assume un prezzo diverso in base al marchio che ha, ma è la stessa acqua. Fantastico Alberto, lei ci ha dato due spunti davvero molto molto interessanti, la ringrazio molto, grazie ad Alberto. Bene, continuiamo e ora finiamo nei ristoranti, perché come ho detto, appunto, cioè, esistono le carte delle acque minerali, e uno tra i primi locali che ha messo la carta delle acque minerali è la Pergola dell'Hilton di Roma, un ristorante 3 stelle molto importante con diverse carte, tra cui appunto quella delle acque. Abbiamo con noi Simone Pinoli, che è il maître della Pergola. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti. Volevo chiederle, ma il cliente che arriva veramente sceglie le acque minerali o siete voi che gliele consigliate? Beh no, noi abbiamo una carta delle acque con all'incirca un 30-35 diverse etichette. Solitamente una carta che noi diamo alle signore, così hanno tempo mentre appunto il marito sceglie il vino, di scegliere magari un'acqua adatta per la cena, insomma. Quindi sono le signore che scelgono le acque? Diciamo in generale sì, poi chiaramente noi vediamo che c'è qualche titubanza eccetera, possiamo dare anche qualche consiglio legato poi al menù che hanno scelto. Senta Simone, succede qualche volta che qualche cliente dica che l'acqua non le serve e ordina solo il vino? Assolutamente sì, ci capita diverse volte che persone che non vogliono avere acqua durante il pasto, assolutamente. E cosa? Ci capita invece persone che non, per varie ragioni non bevono vino, vogliono affidarsi a noi per far sì che noi scegliamo l'acqua per loro, magari due o tre, quattro acque diverse. Ecco, volevo ricordare una cosa molto divertente che è successa un paio di anni fa, e proprio da questa trasmissione, una provocazione di Gualtiero Marchesi che sostenne che certi piatti vanno assaggiati solo con l'acqua minerale, perché solo così si possono apprezzare i contenuti di quel piatto. Ma abbiamo con noi Giuseppe Amati, che è socio fondatore dell'Associazione Degustatori Acque Minerali, quindi è un, diciamo, fa parte dei segretario nazionale idrosommelier. Buongiorno Amati. Buongiorno a tutti. Buongiorno, siete molti Amati sommelier delle acque minerali? Già diplomati, centinaio, con gente che ha frequentato i corsi, sono più di 3.000 ormai. Ho capito. E sono molti che lavorano quindi nei ristoranti? Ma sicuramente la maggior parte dei nostri corsisti sono operatori della ristorazione, perché danno un valore aggiunto alla loro professione, praticamente conoscendo anche, avendo la possibilità di consigliare l'abbinamento sul piatto. Quindi diciamo che ma ci sono casi in cui l'idrosommelier è anche sommelier del vino? Sì, ci sono diversi sommelier che partecipano ai nostri corsi. Ho capito. E voi fate quindi anche gli accostamenti con i piatti, insegnate? Sì, sì, è questo il percorso che facciamo noi, cioè la degustazione dell'acqua minerale finalizzata all'abbinamento sul cibo. Ho capito. Bene, grazie a Simone Pinoli e a Giuseppe Amati che ci hanno dato due spaccati. Volevo chiedere comunque a Simone Pinoli. Pinoli, qual è l'acqua minerale che avete in carta che costa di più? Cioè quanto costa? Non diciamo il marchio. Quanto costa? Noi abbiamo una carta, però un'acqua che per varie ragioni sfiora quasi le 200 euro. Le 200 euro, capito bene? Assolutamente. E da dove arriva? Mi dica, perché questa cosa è molto curiosa. Viene dall'America, esattamente dal Tennessee, dunque una grande zona per i whisky. Il valore di questa acqua è legato molto alla bottiglia. Infatti la bottiglia ha 55 cristalli di Swarovski. Ah, ecco, quindi è all'esterno che cosa. Quindi il cliente se la porta via, immagino. Assolutamente sì, noi poi la confezioniamo, facciamo di un bel fiocco e poi la diamo ovviamente all'uscita, insomma. Bene, grazie perché questa è anche una bella notizia. Grazie, è divertente. Sentiamo Vittorio da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Vittorio. Buongiorno signor Paolini, grazie per avermi richiamato. A proposito di acque minerali, essendo che sono tutte imbottigliate in acqua nelle bottiglie di plastica. Beh, non è vero, cioè ci sono bottiglie di plastica e bottiglie di vetro, insomma, quasi le stesse aziende hanno l'una e l'altra. Generalmente io le vedo imbottigliate in bottiglie di plastica, anche in vetro naturalmente. Vorrei sapere, a proposito delle bottiglie di plastica, ogni tanto si sente dire che fanno male. Beh, insomma, cosa c'è di vero? Beh, fanno male, insomma, io credo che se facessero male ci sarebbe già stato un sequestro collettivo, visto che c'è grande consumo. Sì, ho sentito per radio parlando anche da esperti, da medici. Io credo, ho fatto esperimenti molte volte, magari il sapore è leggermente diverso anche della stessa acqua, su questo non ci sono dubbi, però succede anche con altre bibite, ad esempio ci sono certe bibite che bevute in lattina rispetto al vetro sono completamente diverse, quindi sicuramente il contatto non è così neutro al 100%, però che facciano male, insomma, io credo che minimo di controlli ci siano, visto tanta gente, visto il consumo che sta succedendo, non ho mai sentito che c'è qualcuno che diciamo gli ha fatto male un'acqua minerale. Forse gli fa male il costo delle acque minerali. Vi sentito cosa ci ha raccontato il nostro sommelier, il nostro maître della pergola? E sentito cosa ha raccontato questo signor Aldo da Milano riguardo ai costi della pubblicità? Beh, insomma, c'è da fare qualche riflessione in proposito. Bene, ora parliamo di ciliegie. Siccome una ciliegia tira l'altra e siccome è tempo di ciliegie, sicuramente vale la pena di fare un giro d'Italia, perché un po' tutti sono preoccupati, ma sono buone quest'anno, non sono buone, con tutta quest'acqua come sono? Sono, si infradiciano subito. Bene, io faccio un giro veloce dell'Italia nelle capitali delle ciliegie. Ricordo comunque numero verde 824 0024, sms 349 238 6666. Ci sono già arrivati degli sms, li leggo. Mi hanno regalato una cassetta di ciliegie qualità Ferrovia in provincia di Taranto, prezzo in grosso 1,50, gravi danni per le piogge. Giovanni da dove? Non c'è scritto. Allora, Walter Monari, buongiorno, direttore del consorzio della ciliegia tipica di Vignola, famosissima, e presidente del consorzio nazionale ciliegie d'Italia. Bene, allora le chiedo a lei, così ci faccia un po' un quadro di cosa sta succedendo. Guardi, abbiamo una stagione purtroppo che almeno per quanto riguarda il nord è più autunnale che non estiva, di conseguenza non è la tipica stagione per la raccolta e per il consumo delle ciliegie, purtroppo. Ecco, ma c'è qualche area d'Italia, visto che lei è presidente un po' nazionale, che si sta salvando, nel senso che il tempo, il maltempo non ha colpito un'area particolare? Sì, ecco, le zone delle Puglie sono una zona che quest'anno ha avuto un buon prodotto e con un prodotto anche molto buono per il consumatore. Purtroppo le nostre, dispiace dirlo, però sono un po' più acquose perché guardi, sta diluviando anche oggi purtroppo. Quindi diciamo che Vignola, insomma, quest'anno ne sta risentendo. Rimanga in linea con noi. Sentiamo, allora andiamo a Marostica, che è un altro pezzo importante delle ciliegie. Sentiamo il direttore tecnico dell'Associazione Nazionale Città delle Ciliegie. Perché, buongiorno. Buongiorno, perché esiste un raggruppamento delle città delle ciliegie. Allora, come va a Marostica? A Marostica non molto differente da Vignola, purtroppo. Anche da noi l'acqua quest'anno non la ferma nessuno e piove in continuazione come su gran parte d'Italia, escludendo forse la Puglia. La stagione è questa, ecco, prendiamo quello che viene. Conticchio, a quanto vanno al chilo? Ma guardi, anche qui la matematica e l'economia ci dice che nel momento in cui l'offerta è più bassa e la domanda rimane, il prezzo dovrebbe salire. In realtà, stranamente, ma forse non troppo, anche il prezzo sta subendo delle flessioni notevoli. Siamo intorno mediamente ai 2 euro in questo momento, tendente al ribasso. Bene, rimanete con noi, torneremo fra poco con Ticchio e Monari. Ora passo la linea alla viabilità. Ricordo, numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, ora parleremo di ciliegie, come ho detto. Numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Però voglio leggere ancora qualche sms a proposito delle acque minerali. Ne stanno arrivando tanti, purtroppo come al solito arrivano sempre dulcis in fondo e non riusciamo a dare risposta. C'è un radioascoltatore che dice: quasi tutta l'acqua minerale dal nord al sud viaggia nei carri ferroviari. Bene, poi dalle ferrovie sicuramente viene spostata, caro radioascoltatore, quindi non, cioè così, non è che con questo si elimina una parte dell'inquinamento, una parte dei costi. Un altro mi chiede: vorrei un'informazione, ma al ristorante sono obbligato a chiedere minerale, l'acqua minerale? Chi l'ha detto, caro radioascoltatore? Lei può chiedere quello che vuole, se vuole acqua del rubinetto lei può chiedere acqua del rubinetto e sono obbligati a dargli acqua del rubinetto, per carità, vorrei vedere. Bene, continuiamo con le ciliegie. Sentiamo Dino, un radioascoltatore appunto dalla provincia di Bari. Buongiorno Dino. Buongiorno, innanzitutto complimenti dottor Paolini, la seguo veramente con molto piacere. Grazie. Allora, nulla, volevo soltanto dire, in riferimento a quanto prima riferiva un suo ospite, circa la qualità delle ciliegie, e diceva molto bene, perché quest'anno la Puglia è stata una delle regioni che veramente ha salvato la produzione, e in una zona che si trova fra Turi, in provincia di Bari, a Casamassima, e Conversano, e la raccolta è stata eccezionale e anche il prodotto veramente molto molto buono, credo di una qualità mai registrata finora, per cui ecco. Senta, le faccio una domanda maliziosa: è un produttore lei, Dino? È un agricoltore? No, assolutamente, un consumatore. Bene, guardi, allora abbiamo con noi proprio casualmente l'assessore all'agricoltura del comune di Turi, che è anche agricoltore. Buongiorno Giacomo Valentini. Buongiorno, buongiorno a voi. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Avete lo stellone, signor Valentini, quest'anno? Sì, come tutti gli anni, anche quest'anno abbiamo vinto il primo premio come qualità dei ciliegia ferrovia di Turi. Abbiamo partecipato al concorso che si svolge a Città delle Ciliegie, e quest'anno è a Vicenza, vicino a Vicenza, abbiamo vinto nuovamente il primo premio. Senta Valentini, ma chi è che vi ha protetto così? Però c'è qualche santo, visto che non avete acqua, non so. Quest'anno, grazie all'assessore all'agricoltura, visto che è un nuovo assessore all'agricoltura, grazie a Dio, dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha protetto, ci ha fatto fare una raccolta veramente eccezionale. Ecco, ci dà un prezzo medio, così lo calcoliamo quando arrivano a Milano in qualche negozio. Allora, il produttore vende, l'agricoltore vende a 2,50 euro, da 2 a 2,50. Bene, grazie a Giacomo Valentini. Volevo chiedere velocemente a Walter Monari a quanto vanno. Ah no, Walter Monari, un secondo. Sentiamo Gianni da Modena. Abbiamo un modenese, se chiama un radioascoltatore. Sentiamo cosa chiede. Buongiorno Gianni. Buongiorno signor Paolini. Mi dica. Senta, ho colto l'occasione perché c'è il signor Monari, il dottor Monari, sì. Ecco, che io non conosco personalmente, ma insomma, io lavoro nel settore agricolo, Sì. Nutrizione delle piante, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Sulle ciliegie non sono molto ferrato, vado meglio sul pero e su altre cose. Comunque, quest'anno molti clienti di rivenditori a cui do un po' di assistenza si sono ritrovati che moltissima varietà di ciliegie sono crepate. Beh, chiediamo subito a Monari. Monari, può rispondere? Pronto, Monari? Sì. Ha sentito la domanda? Sì, che molte ciliegie sono crepate. Sì, come mai? Purtroppo quando la piovosità è tanta le ciliegie hanno il difetto, almeno tutte le varietà, chi più che meno, di avere dei problemi di spacco. Noi conosciamo un metodo solo per risolvere questo problema: fare delle coperture con dei teli di plastica che salvaguardano gli impianti dalla pioggia. Purtroppo hanno un problema, uno solo, che sono molto onerose, cioè costano. Bene, grazie a Monari e grazie a Conticchio. Continuiamo, sentiamo Giuliano da Firenze, un altro radioascoltatore. Buongiorno Giuliano. Sì, buongiorno, salve, sempre interessante le trasmissioni. Grazie, mi dica. Ho appena finito di fare la spesa al mercato ortofrutticolo qui a Firenze. Io ho visto i prezzi delle ciliegie 5,5-6. Ora mi domando, da 2 a 2,5, dove finisce tutta la differenza? Caro Gianni, guardi, caro Giuliano, casualmente anche con lei abbiamo in linea il dottor Leonardo Puccioni, che è il presidente del Comitato Tutela della Ciliegia di Lari, quindi in Toscana. Chiediamo, in provincia di Pisa esattamente, chiediamo al dottor Puccioni, come mai questo differenziale, dottor Puccioni? Il differenziale è dovuto, va bene, alle varie mani che passano queste ciliegie, ma anche al fatto che il prodotto, essendo deperibile, c'è sinceramente anche dello scarto, sia da parte del produttore, da parte dell'intermediario. E comunque io non ho seguito bene la parte precedente della trasmissione, però credo che in Toscana quei prezzi che dicevate prima, anche diciamo al produttore sinceramente viene riconosciuto di più. Ecco, quanto viene riconosciuto a Lari sulla famosa ciliegia di Lari? La ciliegia di Lari, quindi se il signore a Firenze, siccome arrivano le ciliegie di Lari, ha avuto modo di andare davanti a ciliegie di Lari, sicuramente a seconda del periodo possono sfruttare anche tranquillamente il doppio di quel prezzo lì. Cioè, quindi l'agricoltore incassa 5 euro al chilo? Specialmente con i primi 15 giorni, sinceramente sì. Lui le ha comprate oggi? Il nostro amico le ha comprate oggi, quindi a Firenze immagino. Cioè ma a Firenze. Alla grande distribuzione, perché anche la Coop, fino ora io abbiamo avuto una stagione terribile, perché avendo piovuto tantissimo le ciliegie si sono sciupate, quindi la raccolta si è interrotta un po' prima. Comunque la Coop ha pagato 5 euro il chilo le ciliegie fino a pochi giorni fa. Bene, quindi il prezzo è giustificato. Grazie, grazie. Devo sentire un radioascoltatore e poi un altro produttore. Enrico da Milano, velocissimo. Buongiorno, senta, io sono appena tornato dall'Ungheria in questi giorni e le ciliegie bellissime, meravigliose, costavano 400 fiorini, che significa meno di 2 euro nei negozi. All'ingrosso o ai negozi? No, nei negozi. Sì. La cosa che mi ha incuriosito di più è stata non solo il prezzo, perché uno può dire in base al costo della vita, eccetera, ma vedere tantissimi camion italiani che partivano dalla zona e alcuni assolutamente identificabili come zone di ciliegie, proprio classiche, proprio guardi, nome. Guardi. No, quello che mi domando, io non ho visto in giro per Milano da nessuna parte le ciliegie targate Ungheria. Bene, grazie, è molto eloquente quello che lei ci ha raccontato. È chiaro che anche con questo tempo qualcosa succede normalmente, pensiamoci, con questo tempo. Abbiamo un ultimo giro, andiamo per vedere nelle capitali, andiamo sulla ciliegia di Pecetto Torinese, andiamo dal signor Miranti. Buongiorno Miranti. Buongiorno. Quanto vanno le ciliegie di Pecetto, le famose ciliegie di Pecetto, che un mio amico pasticcere di Rivalta le usa molto bene? Sentiamo un secondo a quanto vanno. Ma diciamo che qui non c'è un prezzo quest'anno, la pioggia ci ha messo a terra e non c'è un prezzo all'ingrosso. Ho capito. Perché molta vendita, la vendita che c'è è praticamente tutta al consumo. Sono molti i produttori che vendono direttamente al consumo, per cui fare un prezzo della ciliegia locale all'ingrosso è impossibile. Praticamente impossibile. Quindi vi ha distrutto la produzione quest'anno? Diciamo per l'80%, fino adesso l'80-90% ce l'ha distrutta, per cui è sparito il mercato all'ingrosso. Speriamo che non si vedano camion dall'Ungheria, insomma, da quelle parti. No, noi per quanto riguarda ci riguarda, e quindi con un consumo diretto, quindi la vendita diretta, riusciamo a far fronte, logicamente, perché anche la richiesta è decisamente inferiore, ecco, no? Che purtroppo. Bene. Grazie anche a Miranti. Abbiamo sentito appunto la ciliegia di Pecetto Torinese, che viene usata molto in pasticceria. Bene, anche oggi chiudiamo questa trasmissione. Il vostro Gastronauta vi dà appuntamento sabato, stessa ora, stessa radio, stessa trasmissione. Domani la replica alle 10 di quanto avete sentito oggi, e poi alle 12.15 con il Wine Bar del Gastronauta. Buon weekend, speriamo non sotto la pioggia, dal vostro Davide Paolini. Il Gastronauta.